Ribaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, bentornati per un'altra puntata di Zibaldone. Oggi parliamo di 25 aprile. Come lo facciamo? In una maniera un po' particolare, o forse non tanto. Sicuramente questa canzone lo è particolare. Jena fara sdur dore mi khune osemune vashate ma sofre yetone sharm az in khabus sharm az in afsus sharm az in ranje bihude parde خاکستر از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو یا همه با هم یا همه تنها روز نو یا شب بی فردا میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها خاک این گندم خیابونه خوشه ی خشم من و تو تشنه ی بارونه حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تازه این یه آغازه پنجره تو رویا بازه همه با هم یا همه تنها و بلا چاو بلا چاو بلا چاو چاو چاو میپریم از خواب یه شب مهتاب ما که بیداریم تا فردا خرش زنجیر ظلم عالم گیر میشکنه با دستای ما او tutti insieme o anche da sola bella ciao ci svegliamo al chiaro di luna. Noi che resteremo svegli fino all'indomani, alla fine le nostre mani romperanno in tutto il mondo la catena dell'oppressione. Questa è la versione di Bella Ciao con cui abbiamo aperto questa puntata che arriva dall'Iran, le Buluris Behin e Samin Buluri. Ma do subito il benvenuto al nostro Banzo, anzi al bentornato ovviamente, al buon pomeriggio. Banzo, come stai? Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti, sono qui con l'intenzione di partecipare alla puntata perché in Italia è sempre più problematico parlare del 25 aprile, anche per via del governo attualmente in carica, soprattutto per via del governo e anche un po' per la tendenza a dimenticare il valore della storia che affligge una parte della società. Quindi era importante anche cominciare in questo modo perché Bella Ciao è una canzone che è stata coverizzata infinite volte in un grandissimo numero di lingue e questa versione delle Buluris ne è un buon esempio e l'ho già detto altre volte nel corso di questi anni di programma, però vale la pena ricordarlo, Bella Ciao è divisiva solo se sei fascista, ecco, o comunque non propenso a riconoscere il valore della liberazione dal nazifascismo. Assolutamente, assolutamente, l'abbiamo ripetuto spesso in realtà nel corso di questi anni qui su Zibaldone, però vale la pena ripeterlo perché appunto mala tempora currunt soprattutto in Italia, ma non solo in Italia, insomma la recente censura ad Antonio Scurati, scrittore apprezzato e tradotto in tantissimi paesi per un breve monologo sulla RAI è sintomatico del clima che si sta vivendo nel nostro paese. Le Buluris... Censura peraltro, Steven, inciso brevissimo, nascosta con le certo. solite, le solite, diciamo, scuse produttive, i soliti motivi procedurali che ovviamente nascondono la natura ideologica del gesto. Assolutamente, senza contare la criminalizzazione, no, dell'avversario, per esempio la stessa presidente del governo indirizzata a Scurati, e poi il vittimismo sempre dell'estrema destra al riguardo, insomma, che cercano solo di equilibrare l'egemonia di tanti decenni della sinistra. Beh, insomma, se quell'egemonia fosse vera, probabilmente non avrebbero vinto loro le elezioni. Detto ciò, hai usato un'espressione, Steven, che è anche il nome di una pagina Facebook dei tempi andati, il vittimismo dei camerati, ecco, appunto, che è sempre sugli scudi. Le Buluris, dicevamo, abbiamo voluto cominciare questo brano, questa versione del 2021 in Iran. Solo loro sono un duo pop professionista che in genere fa cover di canzoni pop iraniane degli anni 60 e 70, considerato quel periodo l'età d'oro della musica pop persiana, ma questa versione è diventata molto famosa, soprattutto grazie alla rete, e uno degli inni delle proteste dopo la morte di Mahsa Amini, che molti ricorderanno, uccisa dopo essere stata fermata dalla polizia iraniana perché non indossava correttamente il velo. Banzo, parleremo anche di altre versioni e di tante cose in realtà che sono legate a Bella Ciao nella puntata di quest'oggi. Lo faremo soprattutto insieme ad un ospite che è Jacopo Tomatis, musicologo, scrittore, professore all'Università di Torino, che ha scritto un libro che è appena uscito per i tipi del Saggiatore a fine marzo di quest'anno, intitolato proprio Bella Ciao, una canzone, uno spettacolo, un disco. Ecco, insomma, ne parleremo tra poco con lui, però visto che di spettacolo e di disco, insomma, parleremo in relazione alla canzone, al brano, all'inno di Bella Ciao, andiamo subito ad ascoltarci un'altra canzone che è O Gorizia tu sei maledetta, no? E non diciamo molto di più perché a qualcuno Banzo potrebbe pensare: ma cosa c'entra adesso Gorizia con Bella Ciao? Gorizia tu sei maledetta era una canzone legata alla prima guerra mondiale, ecco, però era parte di quello spettacolo, esatto, 1964 a Spoleto del nuovo canzoniere italiano, sì. Presentato a Spoleto in occasione del Festival dei Due Mondi. Ne ascoltiamo una versione del 2016 dei Radio Fiera, gruppo trevigiano, proveniente dal loro EP intitolato 17 milioni, il numero fa riferimento ai morti complessivi della Grande Guerra ed è stato realizzato in partecipazione con Giorgio Canali. E allora ce l'andiamo a ascoltare, eccola qui. Mattina del 5 di agosto si muovevano le truppe italiane per Gorizia, le terre lontane e dolente, ognun si partì sotto l'acqua che cadeva a rovescio. Grandinavano le palle nemiche su quei monti, colline, gran valli, si moriva dicendo così: O Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza. Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. O vigliacchi che voi ve ne state, questa guerra ci insegna a punir. Voi chiamate il campo d'onore, questa terra di là dei confini. Qui si muore gridando assassini, maledetti sarete. Cara moglie, tu che non mi senti, raccomando ai compagni vicini di tenermi da conto i bambini, che io muoio col suo nome nel cuore. Oh Gorizia, tu sei maledetta per ogni cuore che sente coscienza, dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu. Dopo Gorizia, tu sei maledetta, rientriamo in onda perché abbiamo con noi l'ospite di questa puntata di Zibaldone, che è Jacopo Tomatis, musicologo, giornalista, musicista con La Stanza di Greta, che abbiamo fatto sentire spesso qui a Zibaldone. Insegna popular music e etnomusicologia all'Università di Torino, ha pubblicato vari libri, ne avevamo anche già parlato con lui qui a Zibaldone, Storia culturale della canzone italiana e Ricomincia il canto, una raccolta di interviste di Lucio Dalla, e ora appena uscito, sempre per i tipi del saggiatore, Bella Ciao, una canzone, uno spettacolo, un disco. Innanzitutto buon pomeriggio e bentornato a Zibaldone a Jacopo Tomatis. Ciao Jacopo. Ciao, buon pomeriggio, grazie dell'ennesimo invito, sono molto contento. Beh, insomma, fai tante cose belle tra la musica, i saggi, gli studi, e insomma a noi qui interessano molto e è importante parlarne. È importante, poi voglio dire, di Bella Ciao, se vogliamo, nell'Italia di oggi è importante parlarne ogni giorno, ma quest'oggi, insomma, visto che ieri era l'anniversario, il 25 aprile della liberazione dal nazifascismo, forse ancora di più. Ecco, questo tuo libro, Jacopo, direi che è un libro molto importante, e comincerei anche dal sottotitolo, no? Una canzone, uno spettacolo musicale, un album, perché tu all'inizio spieghi, attenzione, quando parliamo di Bella Ciao dobbiamo parlare di tre distinti oggetti culturali. Ecco, puoi spiegare un po' ai nostri ascoltatori a che cosa fai riferimento? Certamente, dobbiamo parlare di almeno tre oggetti culturali. Bella Ciao è un oggetto multiforme, nel mio caso, nel caso del mio libro, è una etrina. Bella Ciao è ovviamente la canzone che tutti conosciamo, che a sua volta ha identità multiple. In Italia è oggi, ma non da sempre, la canzone che unisce quanti si identificano nel retaggio antifascista. Quindi una canzone profondamente divisiva, partigiana, come si dice. Per buona parte degli ascoltatori fuori dall'Italia è più semplicemente una canzone legata al tema della libertà. Però è anche in Italia il titolo di uno spettacolo, Bella Ciao, del nuovo canzoniere italiano, che nel 1964 al Festival dei Due Mondi di Spoleto crea un grande scandalo e lancia il movimento di folk revival in Italia. È un po' considerato l'inizio simbolico del revival delle musiche popolari di tradizione in Italia, e a sua volta è un disco tratto da quello spettacolo su cui si sono formate almeno tre generazioni di musiciste e di musicisti interessati alla canzone popolare, alla canzone politica, al folk. Questi due oggetti, il disco e lo spettacolo, a loro volta sono un pezzo fondamentale di come la canzone Bella Ciao è arrivata alle nostre orecchie oggi, e sono, direi, un tassello centrale per capire il carattere divisivo di Bella Ciao. Senza lo spettacolo del 64, senza il disco del 65, Bella Ciao sarebbe un'altra cosa, non sarebbe la nostra Bella Ciao, quella che oggi conosciamo, cantiamo e su cui molto spesso si litiga anche a livello politico in Italia. Ecco, tu hai spiegato benissimo, no, questo intreccio. Ecco, nel tuo libro appunto cerchi di raccontare questa storia, di sviscerare questa storia, parlando anche di un intreccio che si è capito in realtà da quello che ci hai appena spiegato, tra quella che è, no, la musica popolare, e ci metto anche tra parentesi, vera, con un punto di domanda, e la canzone politica, e qui entra appunto anche il folk revival. Sì, assolutamente. Allora, in Italia, per ragioni molto complesse e molto difficili anche da comprendere a posteriori, si è creata, ragioni che riguardano la storia intellettuale italiana, che riguardano la centralità, per esempio, del pensiero di Antonio Gramsci nel dopoguerra, si è venuta a creare, soprattutto dagli anni 60, una sovrapposizione tra ciò che è il popolare tradizionale, quello che oggi diremmo piuttosto frutto di culture orali, e il politico. E si è venuta a creare l'idea che ciò che è frutto del popolo, ciò che è prodotto dal popolo, è di per sé politico, è di per sé antagonista alla cultura dominante e alla cultura di massa. Quindi appunto la musica popolare vera, opposta alla musica popolare falsa, che invece è la musica diffusa dai mass media, la canzone di Sanremo, ma anche il rock, ma anche il folk, virgolette, falso, dei falsi profeti pagati dal capitale, Bob Dylan naturalmente, John Weitz. Ecco, la storia degli anni 60 italiana, la storia della canzone politica in Italia è una storia di lotte per l'egemonia dei significati di che cos'è la vera musica popolare. E anche qui Bella Ciao, sia la canzone, sia lo spettacolo, sia il disco, sono sostanzialmente il semaforo che regola questi traffici sui discorsi e sul potere delle definizioni. È veramente un pezzo di storia intellettuale italiana, secondo me affascinantissimo e molto molto complesso da spiegare nel contesto contemporaneo, perché è molto difficile spiegarlo a chi oggi ha 20 anni e non ha più un retaggio di questo dibattito politico che in qualche modo ancora gli studenti della mia generazione, quando erano all'università, ricevevano ancora, magari perché i loro maestri avevano fatto parte di quella stagione, ecco. Oltre a un intreccio appunto tra musica popolare e canzone politica, come spiegavi orora, c'è anche una cosa, faccio un piccolo spoiler sul libro, ma piccolino, non dico nulla di più, che è la prima pagina, no? Il libro, Jacopo, si apre con una fotografia che, insomma, a molti, insomma, verrà, no, il cuore comincerà a battere forte, ad altri forse un po' meno, no? Che è una fotografia presa addirittura in Vietnam. Sì, allora io devo dire che questa fotografia è saltata fuori dall'archivio dell'Istituto Ernesto De Martino, dove io ho lavorato molti mesi per trovare i materiali d'archivio per questo libro, ed è una foto secondo me che è bellissima perché riassume molto bene quello che io cercavo di raccontare. C'è Enrico Berlinguer, che di lì a poco diventa segretario del Partito Comunista Italiano, che era all'epoca il partito comunista più potente, ad eccezione dei partiti comunisti dei paesi del blocco sovietico. Quindi di lì a poco lui diventerà il leader più amato, anche del partito più amato di buona parte degli italiani, che va in Vietnam a sostegno del Vietnam, a sostegno di Ho Chi Minh, e dovendo portare un dono a Ho Chi Minh rappresentativo del supporto dei compagni italiani, che cosa gli porta? Gli porta il disco di Bella Ciao del nuovo canzoniere italiano. Ecco, io l'ho trovato, devo dire, anche a suo modo tenero, se ci rifletti. Cioè, che cosa portiamo al grande leader comunista indocinese? No, gli porteremo una mortadella, gli porteremo, non lo so, gli verranno portato magari anche le opere di Gramsci, non lo so, ma nella foto ci racconta che gli hanno portato il disco di Bella Ciao, che probabilmente Ho Chi Minh conosceva, almeno la canzone ovviamente, non lo spettacolo, perché effettivamente Bella Ciao era già cantata, e ne abbiamo traccia, in sud-est asiatico negli anni 50 e 60. Quindi ci fa capire come i dischi intanto entrino nel profondo, nella culturazione politica, ma anche sentimentale, degli uomini e delle donne di tutte le epoche, ancora oggi questo è vero, e di come Bella Ciao in qualche modo sia entrata in tante storie parallele, persino nella storia della guerra del Vietnam, all'apice della sua escalation nel 66, il momento in cui gli Stati Uniti stanno dispiegando 1 milione di soldati sul terreno, sul campo. Ecco, Bella Ciao è anche lì, è in un disco che il futuro leader comunista Berlinguer dona al capo della parte avversa agli americani, Ho Chi Minh. Ascolta, prima parlavamo allora anche di questi oggetti culturali, e uno di questi è appunto lo spettacolo musicale, no? Da cui poi è tratto il disco che appunto Berlinguer ha portato in Vietnam. Ecco, nel tuo libro un intero capitolo è proprio dedicato alle vicende di questo celebre spettacolo, no? Il Bella Ciao presentato a Spoleto dal Nuovo Canzoniere Italiano, stiamo parlando del giugno del 1964. Nella parte iniziale e finale dello spettacolo ci sono due versioni di Bella Ciao. La seconda è cantata da Giovanna Daffini, no? E sarà poi indicata come la versione delle mondine, mettiamoci delle virgolette. E ha una storia molto particolare. Ecco, la puoi spiegare anche ai nostri ascoltatori, perché credo che, insomma, per chi magari sa anche qualcosa su Bella Ciao e per chi ne sa pochissimo, ecco, è una storia davvero interessante. Sì, allora ancora oggi, e l'ho verificato anche in questi giorni di conferenze, di incontri su Bella Ciao, c'è un mito duro a morire, che è l'idea che Bella Ciao sia una canzone delle mondine. Tantissimi gli si chiede, ma Bella Ciao da dove deriva? È una canzone delle mondine. Questa cosa è ormai entrata nel senso comune in Italia, nonostante sia stata smentita già da 40 anni, cioè da quasi un minuto dopo che lo spettacolo uscì dalla fine dello spettacolo Bella Ciao, che effettivamente portava avanti questa idea di Bella Ciao mondina. Che cosa succede? Succede che i ricercatori del Nuovo Canzoniere Italiano vanno a raccogliere canzoni per i loro spettacoli da Giovanna Daffini, grande cantante che in passato era stata una mondina, ma che era un'intrattenitrice di piazza molto popolare nella sua piccola zona di attività nella Bassa Padana. Giovanna Daffini gli canta una versione mondina di Bella Ciao, in cui invece dei partigiani ci sono le mondine e c'è il caposquadra cattivo col suo bastone e noi curve a lavorare. Questa versione colpisce la fantasia dei ricercatori del Nuovo Canzoniere Italiano, perché in qualche modo è una specie di anello mancante nella loro costruzione di quello che era il popolare, no? Cioè, vuol dire che Giovanna Daffini dice: questa la cantavamo negli anni 30, prima della guerra. Però avere una Bella Ciao mondina negli anni 30 significa riuscire a collegare i repertori vocali del bracciantato agricolo, dei lavoratori della terra durante il fascismo, quindi durante la dittatura, riuscire a collegarli direttamente con la guerra partigiana. Quindi ovviamente è un anello mancante favoloso, perché permette di affermare: oddio, sì, è vero, la canzone popolare è antagonista, ha un valore politico, addirittura esistono canzoni che passano dai lavoratori della terra ai partigiani, e peraltro Bella Ciao aveva radici nell'antica ballata epico-lirica del Nord Italia, quindi in qualche modo permettevano di dimostrare una genealogia secolare di questo antagonismo. Quindi quello che di solito si insegna agli studenti di antropologia al primo anno è che se qualcosa sul campo è troppo bello per essere vero, e se l'informatore ti dice esattamente quello che vuoi sentirti dire, di solito non è vero e l'informatore sta mentendo. E infatti è esattamente quello che è successo. Viene fuori poco dopo lo spettacolo un personaggio bizzarro, ex mondino, Vasco Scansani, scrive una lettera all'Unità dicendo: no, fermi tutti, quella versione mondina l'ho insegnata io a Giovanna Daffini, l'ho scritta io nel 51 per una gara di canto fra mondine. Cosa è successo? Giovanna Daffini, a cui il Nuovo Canzoniere Italiano chiedeva canzoni per alimentare gli spettacoli, a un certo punto non ne ha più, va da Scansani e in cambio di una bottiglia di vino si faceva insegnare delle canzoni che lei o non conosceva o non ricordava più, fra queste Bella Ciao delle mondine. Solo che ovviamente la smentita della notizia di Bella Ciao come canzone mondina viene in qualche modo data un po' lateralmente in alcune pubblicazioni di difficile reperibilità o dattiloscritte o dentro spettacoli con poche centinaia di spettatori, mentre invece il disco di Bella Ciao, lo stesso disco che arriva fino ad Ho Chi Minh, riporta sul retro la filiazione mondina, e tutte le versioni successive, ancora le ristampe recenti, riportano questa informazione, che a sua volta è stata rilanciata da, per esempio, Milva, una delle grandi interprete di Bella Ciao negli anni 60 e 70, che in ogni trasmissione televisiva in cui la canta dice: questa è una canzone delle mondine. E così di notizia in notizia si crea quella che oggi diremmo una fake news, che però entra nel profondo della nostra concezione di quello che è Bella Ciao. Ancora oggi Bella Ciao è una canzone delle mondine. Non lo è, o meglio, sì, lo è stato negli anni 50 probabilmente, non prima della guerra. Un mito, diciamo così, anche duro a morire. A proposito dello spettacolo del 1964, andiamo ad ascoltarci un'altra canzone. Anche in questo caso è una versione più recente di Cristina Meschia, che è piemontese come te, Jacopo, Le povere filandere, una versione del 2018 di questa cantautrice appunto piemontese, che propone un album che si muove tra il folk e il jazz, intitolato Inverna, e che è proprio impegnato a riproporre canti della tradizione lombarda ispirati al lavoro di Nanni Svampa e proprio del nuovo canzoniere italiano, e dal Bella Ciao riprende proprio Le povere filandere, no? Un canto di protesta nato nelle filande del Bergamasco alla fine dell'Ottocento e poi diffuso in Brianza, nel Cremonese e in Veneto. Lei è Cristina Meschi e questa è Le povere filandere. Sur la paille, vous crèverez dans le foin. Sonne la campanella, gaine et charme discure. Bore filandere, pica il coin del mur. Sans la cloche, ce n'est ni clair ni obscur. Pauvre fileuse, vous vous tapez la tête au mur. Pauvre filandere, che n'a prima e ben dorme in la baia, creper in tel fen. Diretta con Jacopo Tomatis per parlare del suo libro Bella Ciao, appunto, no? Tre distinti oggetti culturali: canzone, spettacolo musicale, album. E proprio sull'album volevo concentrarmi ora, Jacopo, no? Uscito nel 65 per i Dischi del Sole, un disco che ha influenzato tantissimo, no? Il folk revival e anche proprio la sonorità, no? Di quello che è il suono, questo genere musicale e l'impatto appunto che poi ha avuto sulla cultura e sulla sinistra italiana. Sì, assolutamente, perché è stato un disco di cui non sappiamo i numeri effettivi, non abbiamo i dati di vendita, perché è un disco che, come tutti i Dischi del Sole, veniva venduto soprattutto attraverso canali informali, alle feste dell'Unità, alle librerie Rinascita, ai concerti. però sappiamo, perché lo hanno raccontato innumerevoli militanti, che è un disco che è entrato nelle case di moltissimi musicisti, ma non solo. Tanti ricordo, per esempio, io ricordo spesso Riccardo Tesi, che ha fatto ha diretto una reprise dello spettacolo per i 50 anni, ormai quasi 10 anni fa, che ricordava che suo padre non aveva nessun disco in casa tranne il disco di Bella Ciao, che in qualche modo anche la sua fascinazione per quelle musiche nasceva da questo ingresso domestico di queste canzoni. Ma poi devo dire che, per esempio, lo stesso riguarda anche me. Io sono di un'altra generazione, ovviamente, ma la cassetta con le canzoni di Bella Ciao girava in casa mia quando ero bambino. Io l'ascoltavo sul mio Walkman nei primi anni 90, ricordo che era nell'autoradio della macchina dei miei genitori, perché i miei genitori ex militanti avevano il disco e quelle canzoni erano parte della loro identità sonora, sentimentale, culturale. Quindi in qualche modo ciò che viene fissato sul disco rimane poi a disposizione per farsi come modello stilistico, estetico, ma anche proprio come modello ideologico. Ecco, il disco di Bella Ciao questo è: il folk italiano successivo suona in un certo modo, è cantato in un certo modo, perché Bella Ciao è stato il suo primo successo. E allora le chitarre acustiche, per esempio, nella musica tradizionale italiana, quella che i ricercatori scoprivano sul campo in quegli anni, le chitarre praticamente non ci sono, ma invece nel folk e nella canzone politica è tutto un fiore di chitarre suonate in un certo modo, perché in qualche modo il disco di Bella Ciao contribuisce alla popolarità di quel tipo di arrangiamento. E così per le voci, l'idea di cantare in un certo modo alla popolare, di cantare come le mondine, ecco, in realtà non è in nessun modo una scelta filologica, è qualcosa che viene fatto dai militanti negli anni 60-70 a imitazione di Bella Ciao. Io ho lavorato un po' sul 68 e, per esempio, nelle università occupate si cantavano le canzoni di Bella Ciao, le canzoni di Giovanna Marini, spesso con dei nuovi testi scritti di getto per commentare l'ultimo evento di attualità dell'occupazione e della lotta studentesca. Ma in qualche modo quella è diventata per una generazione la musica popolare, la vera musica popolare, la musica politica. E ciò è affascinante, perché questo, in qualche modo, l'ombra lunga di tutto questo arriva fino ad oggi, ecco. Che ovviamente anche si collega con non solo un periodo storico, ma anche la forza, no? Il radicamento territoriale di quella che era la cultura comunista, anche la socialista, ovviamente, no? Organizzazioni di massa, certo, con, no, le case popolari, il sindacato, le feste dell'unità, che permettevano, no, anche questa, la circolazione, no, di questi miti in alcuni casi e di queste anche narrative. Ma assolutamente sì, cioè in realtà la storia di Bella Ciao, anche la storia di Bella Ciao la canzone, è un pezzo forse in realtà poco studiato di quel grande movimento culturale e politico che è stato la sinistra italiana negli anni del dopoguerra, dove il Partito Comunista era non solo un partito di massa che gestiva un buon pezzo degli elettori, ma era, per esempio, il più grande organizzatore di eventi di musica dal vivo nel nostro paese. Questo è stato vero dagli anni 50 fino ancora a un pezzo degli anni 80, per intenderci, in cui veramente un pezzo importantissimo del mercato musicale passava attraverso le feste dell'unità o attraverso l'Arci da un certo momento in poi, comunque attraverso organizzazioni che facevano capo a una linea politica e a personale che era politico, che era formato politicamente nelle fila del Partito Comunista soprattutto, ma anche poi del Partito Socialista e poi delle organizzazioni della Nuova Sinistra, insomma Lotta Continua, sì, e sì, i vari partitini che vengono fuori negli anni post 68. Questo è un pezzo enorme. Bella Ciao, anche la canzone, si inserisce dentro questa storia in maniera anche problematica per certi versi. Cerchiamo di chiudere il cerchio di questa storia che è davvero appassionante e complessa, tra l'altro, insomma, ce lo sei riuscito a spiegare davvero bene. Torniamo quindi alla canzone. Bella Ciao, lo sappiamo, lo hai ricordato anche tu all'inizio, ha goduto di una diffusione internazionale molto rapida, con decine e decine, addirittura direi forse anche centinaia di versioni in altre lingue. C'è anche un bel documentario di Giulia Giapponesi, Bella Ciao per la libertà, uscito nel 2022, che parla proprio di questa tematica. Ecco, quello che ti volevo domandare però, se a tuo parere questa diffusione di Bella Ciao, che continua anche adesso, anche in questi mesi, in questi anni, e si è amplificata attraverso il web negli ultimi due decenni, è dovuta più che altro a fattori esterni, ossia per esempio anche il successo, pensiamo, di una serie come La Casa de Papel, no? Che l'ha riproposta, o a caratteristiche intrinseche della canzone, quindi la melodia, il testo, i diversi arrangiamenti del brano che poi insomma si sono susseguiti negli anni? Ma sai, sono meccanismi che si autoalimentano a vicenda. Allora, la storia di Bella Ciao è veramente anomala, cioè è difficile ricostruirla perché ha delle svolte, quando tu ti metti a scavare un minimo, che non sono attese. Allora, per esempio, io la prima attestazione a stampa di Bella Ciao che ho trovato, di qualcuno che canta Bella Ciao, che sono stato in grado di trovare, al netto di alcuni documenti a circolazione limitata che la situano durante la Seconda Guerra Mondiale in Centro Italia e che dimostrano che era cantata dai partigiani delle Marche intorno al 44, ecco, dopo quella attestazione lì, la prima attestazione che io ho trovato è in Nord Corea. È un inviato dell'unità che va in Nord Corea, a un certo punto incontra delle militanti e una ragazza gli dice: ah sai, io conosco una canzone italiana, gli canta Bella Ciao, e gli dice: l'ho imparata da alcuni volontari cinesi che combattevano con noi, sono gli anni della guerra di Corea. Poi la ritrovi poco dopo al congresso del Partito Comunista Indonesiano, dove si cantano due canzoni, Bandiera Rossa e Bella Ciao. E poi la ritrovi in Ghana, c'è uno studente ghanese, sempre l'inviato dell'unità, incontra questo studente che gli dice, ovviamente come spesso succede quando si fanno i lunghi transfer in taxi o con le macchine, fa: sai, conosco un sacco di canzoni italiane, oggi di solito è Celentano. Ecco, in Ghana nel 65-66 lo studente conosce Bella Ciao e gli dice: sì sai, l'ho imparata a Mosca quando sono andato a studiare il russo. Ecco, la storia di Bella Ciao è piena di questi strani twist, per cui Bella Ciao era una canzone globale molto prima di essere una canzone registrata su disco, perché noi la troviamo diffusa in tutto il mondo già negli anni 50, probabilmente attraverso il veicolo, anzi quasi sicuramente attraverso il veicolo dei festival internazionali della gioventù comunista che raccoglievano in alcune capitali europee, la prima fu a Praga nel 47, i militanti di tutte le nazioni aderenti, diciamo, al blocco comunista, ecco. Poi sì, certo, invece ci sono fenomeni più contemporanei che riguardano i riarrangiamenti. Casa de Papel è un esempio lampante, ma Casa de Papel sceglie Bella Ciao perché per l'ascoltatore medio non italiano Bella Ciao è una generica canzone della libertà che si presta a battaglie molto diverse. Non è la canzone antifascista, è la canzone della libertà. E infatti nel concerto di Casa de Papel non è scelta a caso, si associa a quel generico tema anticapitalista, ok, andiamo a derubare la Banca di Spagna, non faccio spoiler, e quindi cantiamo una canzone che in qualche modo è a tema libertà anticapitalista, Bella Ciao, ecco. Quindi c'è questi usi strani, se vuoi, no? Che per noi strani o distorti di Bella Ciao, perché Bella Ciao ha tante vite parallele che spesso non riusciamo a spiegarci, effettivamente. Appunto, dalla Corea del Nord del 53 a Casa de Papel passano più di 50 anni e chissà quante migliaia di versioni di Bella Ciao in quante lingue diverse, a sostegno di quante battaglie diverse, perché poi Bella Ciao è stata usata sostanzialmente per ogni tipo di battaglia e per la battaglia opposta, non è una canzone univoca nel suo significato, all'estero soprattutto. Assolutamente. Ascolta, per chiudere, botta risposta, se tu dovessi nominare le tre versioni o due, insomma, se vuoi, di Bella Ciao, che più ti piacciono perché sono bellissime musicalmente o perché sono molto particolari, tu quali ricorderesti? Anche in traduzioni in altre lingue mi riferisco. Certo, allora su questa mi sono preparato perché me l'hanno chiesta un paio di volte in questi giorni e io ripetevo sempre che io odio la canzone Bella Ciao, cosa che è la verità. Poi è strano dirlo alla fine di un'intervista in cui insomma, c'hai fatto un libro. Io non ho mai amato Bella Ciao, però sì, se devo dirti le tre versioni ti dico la prima versione registrata di Bella Ciao che ne setta le coordinate. Se oggi Bella Ciao suona così è perché Yves Montand nel 62 la registra così con una chitarrina jazz manouche e una fisarmonica molto francese e il suo fantastico accento francese. Poi vabbè, su tempi recenti potrei dirti quella di Tom Waits, che è uno standard incredibile di come una canzone può essere rivivificata. Nel mezzo ci metto una canzone che cito nel libro, in quanto apparizione surreale di Bella Ciao, perché appunto, come dicevo, la storia di Bella Ciao è la storia di apparizione surreale, che è una cover twist svedese di Bella Ciao che si chiama Jagar Foralskad, che significa Io sono innamorata, cantata da Marianne Nilsson, una piccola diva svedese del periodo, che è arrangiata benissimo in stile twist e che non parla assolutamente di partigiani, perché alla fine Bella Ciao è anche sempre stata una bella melodia da usare per qualunque cosa. Jacopo Tomatis, autore di quest'ultimo libro, non è il primo ovviamente dei saggi che ha scritto. Bella Ciao, una canzone, uno spettacolo, un disco appena uscito per i tipi del saggiatore, che vi invitiamo davvero a leggere perché è un libro davvero appassionante. Jacopo, grazie davvero di essere stato con noi a Zibaldone e a prestissimo. Grazie mille a te, spero di tornare presto con un altro libro. Pellegrin che vien da Roma con i scarpi rotai pe, el birocel va, el birocel va. Pellegrin che vien da Roma con i scarpi rotai pe. Appena fu arrivato all'osteria se ne andò, el birocel va, el birocel va. Non appena fu arrivato all'osteria se ne andò. Buonasera signor oste, c'ha una camera per me. El birocel va, el birocel va. Buonasera signor oste, c'ha una camera per me. Ce n'è una sola dove dorme la mia mia. Per maggiore sicurezza metteremo un campanello. El birocel va, el birocel va. Per maggiore sicurezza metteremo un campanello. Mezzanotte era suonata, il campanel se mi ha suonato, il birocel va, il birocel va. Mezzanotte era suonata, il campanel se mi ha suonato. Brut purcell d'un pellegrino, sta che fai la membre. El birocel va, el birocel va. Ruit purcell d'un pellegrino, sta che fai la membre. Osteria se ne andò. Buonasera signor oste, c'ha una camera per me. Camera ce n'è una sola dove dorme la mia mue. Per maggiore sicurezza metteremo un campanel. Mezzanotte era suonata, il campanel se mi ha suonato. Il purcell d'un pellegrino, se campassi anche cent'anni, pellegrin antegni più. El birocel va, el birocel va. Se campassi anche cent'anni, pellegrin antegni più. Se campassi anche cent'anni, pellegrin antegni più. La La guerra che vediamo lontana può avvicinarsi. Al Brennero, vicino alla Spezia, sequestrata e dirottata dai Pasdaran, una macchina, così inseguono un automobilista in un altro veicolo e lo investono, urlando: c'è sempre più bisogno di noi moderati. Shock a Chicago, una strana e bellissima avventura tra storia, temperature fino a 30 gradi e grande musica. Francesco De Gregori e un drone subacqueo insieme da un calciatore sedicenne nell'album di Antonello Venditti, per cause ancora poco chiare. Ora che può avvicinarsi ai ristoranti cinesi alla scoperta di nuovi sapori. Salvini celebra 40 anni dalla fondazione della Lega davanti a un frigo con 6 o 7 persone, secondo cui il mancato contrasto al cambiamento climatico aumenta la qualità della loro vita. Nelle località di mare è tutto pronto, ma sole e temperature ben oltre la media non placano i demoni assassini moderati. Al via in Inghilterra la stretta su immigrati e studenti lavoratori. Per avere un permesso di lavoro bisogna fare finta di niente, fuggendo su un furgone da 300.000 euro. Schiaffi agli Stati Generali di Forza Italia. La reazione assurda di un genitore sugli spalti quando si accorge che il figlio non è Berlusconi. Tajani, preoccupato, non può avvicinarsi e sposta a Seveso in Lombardia la portaerei Eisenhower. E avete sentito che sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvi a Banzo? Beh, insomma, io partirei subito dal congresso di Forza Italia. Beh, io quel genitore non ho ben capito esattamente cosa si aspettasse, ma bisognerebbe essere nella sua testa, cioè scoprire che suo figlio non è Berlusconi, bisognerebbe guardare il suo cognome per cominciare. Io invece tornerei all'inizio per questo proclama dei Pasdaran che affermano, appunto, definendosi come moderati, che c'è sempre più bisogno di loro, ecco. D'altronde l'autoconcetto che hanno i moderati di se stessi è qualcosa di a volte imprendibile, e questo è soltanto un altro esempio. Ma se mi permetti altre due brevissime note, spero che vengano chiariti i motivi per i quali De Gregori, un drone subacqueo e un calciatore sedicenne partecipano all'album di Venditti, perché ancora i motivi non si sanno, e forse è meglio non saperli, non lo so. E chiudiamo in bellezza con Salvini davanti a un frigo, che è un'immagine molto iconica, però c'è molta verità, come spesso succede nell'ultimissima, che dicono: il mancato contrasto al cambio climatico migliora la nostra qualità di vita. Ed è vero, però peggiora la nostra, che abbiamo coscienza di questo problema. Eh sì, è proprio così. Ringraziamo ancora Fausto e le sue ultimissime. Prima abbiamo ascoltato un altro brano, una versione molto recente di questo 2024, di un brano che faceva parte dello spettacolo di Spoleto del 1964. Nella sezione Canti della Domenica c'era questa Pellegrin che viene da Roma, no? Sulla via del ritorno dal pellegrinaggio a Roma, un galantuomo alloggia in una locanda e dorme nel letto della moglie dell'oste. Insomma, una ballata comica che era molto diffusa nel nord della penisola italiana, tra il Piemonte e il Veneto, una canzone da osteria che fu poi anche ripresa nel 1966 dai Gufi. Ecco, la versione che invece noi abbiamo ascoltato è di un cantautore ticinese, Marco Zappa, in un disco uscito per celebrare i suoi 75 anni, intitolato Anele. 75 anni e mezzo secolo, 50 di questi, passati sui palchi. E in questo senso, Steven, vorrei precisare che se non conoscete Marco Zappa, come era il mio caso, peraltro, sul suo sito c'è una biografia straordinariamente dettagliata con foto, con tutte le informazioni possibili e immaginabili, che ne danno un quadro veramente molto completo. E rimaniamo sempre cronologicamente vicini a questo 2024, facciamo un salto di 3 anni indietro per andare ad ascoltarci questa L'Orusciu de Lumare nella versione di Ginevra Di Marco, Alessio Lega, insieme a il grandissimo Riccardo Tesi. Giorno io passava tele patule, entisile cragnoncule cantare, entisile cragnoncule cantare. A una io le sentia cantare, come pariane l'Orusciu de Lumare, come pariane l'Orusciu conosciuta il mare. L'urushu del mare, mutu forte, la figlia dell'urre, seda e la morte, la figlia dell'urre, seda e la morte. Seda e la morte, io la vita, la figlia dell'urre, sta semmarita, la figlia dell'urre, sta semmarita. E da se sta marita, e io mensuru, la figlia dell'urre, me da e nu fiuru, la figlia dell'urre, me da e nu fiuru. Me da in fiuru e è una parma, la figlia dell'urre, sendia e alla Spagna, la figlia dell'urre, sendia e alla Spagna. E da sendi alla Spagna e è un Turchia, la figlia dell'urre, la zita mia, la figlia dell'urre, la zita mia. Ce l'avrete riconosciuta, l'avevo annunciato, Alessio Lega, che è stato spesso nostro ospite anche fisicamente negli studi di Radio Contrabbanda. Banzo, questa canzone che ci porta un po' al sud e è un progetto un po' particolare, no? Il disco che includeva proprio questo brano. Che tempi quelli degli studi di Contrabbanda, ma l'ho già detto tante volte. Sì, esatto. Allora, il titolo del brano non l'abbiamo detto, L'uscio del mare, tradotto in italiano sarebbe Il rumore del mare. Questa versione appunto faceva parte di un disco uscito nel 2014 che si intitolava A Sud di Bella Ciao, che è un titolo veramente molto azzeccato quando se ne scopre il senso, cioè che aveva il proposito di ampliare la narrazione dello spettacolo Bella Ciao del 1964, dal quale abbiamo sentito alcune canzoni poco fa, perché appunto il focus dello spettacolo originario era soprattutto su brani della pianura padana e poco oltre, quindi diciamo che si voleva ampliare lo spettro geografico più a sud. Effettivamente sì, in realtà la canzone del 2021, del 2014 era il brano, era il disco, il progetto originale di Alessio Lega, Riccardo Tesi, Gidera Di Marco, ma anche altri nomi importanti della canzone popolare d'autore italiana come Elena Ledda, Lucilla Galeazzi, tra gli altri, tra i molti, o Gigi Biolcati, che proprio nel 2014, nel 50° dello spettacolo di Spoleto, aveva ripreso dal vivo e poi inciso anche su disco con la supervisione di Franco Fabbri il Bella Ciao originale, quello insomma di cui abbiamo parlato anche con Jacopo Tomatis. Ecco, 7 anni dopo invece si sono voluti spingere a sud di Bella Ciao, e appunto L'uruscio dello mare era contenuta in questo disco uscito nel 2021. Noi siamo arrivati, Banzo, proprio alla fine di Zibaldone, ci rimane il tempo non solo per i saluti ma anche per l'ultimo trago, ossia De Italia Otra Parte, una canzone italiana interpretata, tradotta e interpretata in spagnolo. Ecco, oggi ovviamente non potevamo non proporvi una versione spagnola di Bella Ciao. Sì, oggi la scelta era particolarmente scontata, però è giusta, anche perché così possiamo chiudere il cerchio. Abbiamo sentito all'inizio una versione in persiano e adesso sentiamo una versione in spagnolo, ovviamente come testo più prossima a noi. Ce la propone Adolfo Celdran è stata incisa nel 1967 nel suo primo EP. Celdran è un cantautore alicantino classe 43, quindi ha circa 80 anni, fondatore nel 67 del gruppo folk Canción del Pueblo, che poi si sciolse di lì a breve. E appunto andiamo a sentire Bella Ciao in spagnolo, non solo perché è una versione in spagnolo, ma perché è la prima ad essere stata incisa, quindi è stata una prima volta, diciamo circa 20 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Esattamente, proprio così. E noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un'altra ora di Zibaldone qui su Radio Contrabanda, niente di più, niente di meno. Grazie di essere stati con noi, buon venerdì sera, buon fine settimana, buon 25 aprile ovviamente, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17:57 diceva tutti i venerdì: mi raccomando, diffidate anche da un'altra incarnazione dei moderati, che sono i demoni assassini, ecco, attenti. Ciao Banzo, grazie di essere stato con noi, buona serata. Adolfo Celdran, Bella Ciao. Bella ciao, bella ciao. Esta mañana he despertado, oh bella ciao, chao, chao, chao. Esta mañana he despertado y he encontrado al opresor. Oh guerrillero, quiero ir contigo, oh bella ciao, chao, chao, chao. Guerrillero, quiero ir contigo porque me siento morir. Si yo caigo en la guerrilla, oh bella chao, chao, chao, chao. Y si yo caigo en la guerrilla, toma en tus manos mi fusil. Cava una fosa en la montaña, oh bella chao, chao, chao, chao. Cava una fosa en la montaña, bajo la sombra de una flor. Y la gente que la vea, oh bella chao, chao, chao, chao. Y la gente que la vea se dirá qué bella flor. Esa es la flor del guerrillero, oh bella chao, chao, chao, chao. Es la flor del guerrillero muerto por la libertad. Esa es la flor del guerrillero muerto por la libertad. Esta mañana he despertado, oh bella chao, bella chao.